oggi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi, ma tanta speranza. A mano mi perdo e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera. Crescere un fiore da questo mio amore per te. Vedrai che nel tempo e sopra il tuo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ci aveva rubato, che torna fedele l'amore, è tornato da te. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. No voy a capar di ma pacio sonno, non c'è di cima mai e perché. Voca cavasa non ne vonno, non so sti vocco in e. Pure te chiamo e non rispondo, per fa dispietta a me. Tieni, ma c'ha così anima e cuore, non ce la sa più manco penora. Sto desiderio te me fa paura, campa cu te, sempre cu te, per non morire. Che c'è, dici, ma fa parola amare. Se io bene può campare con un respiro, si smania pure tu per chi sta amore. Tieni ma c'ha così anima e cuore. Forse sarà qualche anta dolce, forse sarà che bene fa, quando mi sento più felice, non è felicità. Specie se a volte tu mi dici distratta verità. Desiderie te me fa paura, campa con te, sempre con te e non morire. Che c'è, dici, ma fa parola amare. Si ho bene o può campare d'amore, tieni ma c'ha così anima e cuore. Tieni ma c'ha così anima e cuore. Brindare un incontro con te che già eri d'un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi t'accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te, e poi gettare via il perché. Amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, vi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine d'un amore. Cameriere, champagne. Ser feliz a quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar, da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. Com você perto de mim, até eu apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. Ao ver você, eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Feliz assim, muita calma pra pensar, calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar. O tempo nunca dá. Janela vê se o corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Meu amor, meu amor. O que é felicidade, meu amor? Thank you. música. Bueno, el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Era già tutto previsto, sin da quando tu, ballando, m'hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava, agli amici raccontava delle cose che sai dire, delle cose che sai fare nei momenti dell'amore. Mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano: non lo amo, non lo amo. Era già tutto previsto, fino al punto che sapevo che oggi tu m'avresti detto quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare, che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore. Ma quale amore? Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi e il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarei restato solo in casa mia e mi butto sopra il letto ed abbraccio il tuo cuscino. Non ho saputo prevedere solo che però adesso lì vorrei morire. Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit les mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui. Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo un volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e tua bocca da baciar. Hai fa un malam in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, fatta nato quello che fatta a me, stom t'avesse acciso e vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra femmine come a te. ora sta penombre, non è sto con me. Femmena, tu sei una mala femmena, a sto occhi è fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmena, si tu peggio una vipera, mentus cato l'anima, non pozza più campa. Femmena, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Femmena, tu sia più bella femmena, te voglio bene, t'odio, non te posso sia più bella femmena, te voglio bene, t'odio, non te posso scurda, te voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu. E tu vano capriccio tutto è distrutto in me, ma Dio non t'ho perdono che l'ha fatta a me. Femmena, si dolce come zucchero, sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmena, tu sia più bella femmena, e voglio bene t'odio, non te posso scordare. Comprende lo che soffro io, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy, todo. Me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de mí. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí. De mí. Radio Acupé, la mejor música para usted. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, los días. Y yo desesperando. Quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que me preguntas, que cuándo, cómo que y cuando, dónde, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, siempre respondo, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?

vai con l'estate, ma settembre già, domani tutto sembrerà normale, ma forse non ci sarà neppure amore mio, tempo per abbracciarti ancora e dirti addio. No, non piangerò, io sarò forte, vedrai. Non preoccuparti se il mio viso sembra un po' stanco, sai. Non ho dormito mai perché davanti avevo gli occhi tuoi, quegli occhi che guardano altrove, lontano da me. Settembre ormai è qui e si prende con l'estate i sogni miei. Tutto sembra tranquillo, invece te ne vai. Settembre passerà, ma tu non tornerai. Lontano da me. Ricordato degli amanti come noi, e ha detto al sole, troppo caldi raggi tuoi. Settembre già, domani tutto sembrerà normale, ma forse non ci sarà neppure amore mio, tempo per abbracciarti ancora e dirti addio. Tempo per abbracciarti ancora e dirti addio. Fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani. Grandi mani senza fine. della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza fine. Se il corpo tuo non fosse così bello, la pelle così fresca e delicata, che febbre di passione e di rovello provoca in me, perché l'ho accarezzata. Se insomma tu non fossi come sei, più di quello che t'amo, t'amerei. Tristezza, pur favor vai embora, miña alma che chora, sta vendo meu fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Na, na, na. Por favor, vai embora, minha alma que chora, está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Meu coração, a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Na, na, na. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. When I fall in love, above, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in with you. This world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall.